con il regista Massimo Bondielli per presentare il suo documentario Il sole sulla pelle, che sarà in proiezione a Roma, alla Casa del Cinema, giovedì 28 febbraio 2019. Massimo, ben trovato. Grazie, ben trovati anche voi. All'interno dell'edizione 2019 di Italia Doc di Maurizio Di Rienzo, lo raccontiamo brevemente. Allora, la storia, diciamo, in generale racconta i fatti che sono avvenuti il 29 giugno 2009 con la strage ferroviaria di Viareggio, dove un treno che portava gas GPL, 14 cisterne gas GPL deragliato nella stazione di Viareggio, una cisterna si è sforata, è uscito il gas è entrato nelle case e 32 persone sono morte bruciate vive. Il documentario parte da questo evento, ma soprattutto racconta quello che è successo in questi 10 anni. Quindi una trasformazione di un dolore personale, un dolore comune, che si è trasformato in una battaglia per la verità, per la giustizia e quindi in una battaglia civile. Massimo, qual è l'iter giudiziario? A cosa siamo arrivati? Allora, al momento, anche oggi, siamo al secondo grado. Anche oggi sono i familiari in tribunale a Firenze. Diciamo che il primo grado ha fatto venire fuori quello che loro denunciavano da tempo, cioè un problema di sicurezza in ferrovia, dove i piani della sicurezza non sono chiari, dove alcune cose non sono fatte come devono essere fatte. Primo grado gli ha dato ragione perché ci sono state delle accuse pesanti, dove sono stati condannati appunto i vertici, gli ex vertici di Ferrovie e delle altre società, e al momento siamo appunto nel secondo grado e speriamo nella conferma di questa condanna. Com'è nata la spinta a realizzare questo documentario? Io vivo a 25 km da Viareggio, ho sempre seguito la vicenda, ma diciamo, mi mancava quello che c'è dietro la notizia, cioè non mi accontentavo semplicemente di ascoltare i processi, di ascoltare le notizie che passavano dai media, ma volevo conoscere le persone, capire come si può affrontare un dolore così grosso e riuscire a trasformarlo, riuscire a guardare avanti. Allora, insieme a Luigi Martella, con la nostra caravana Serraglio Film Factory, abbiamo deciso di affiancarci a queste persone. Lo abbiamo fatto in punta di piedi, rispettando i loro tempi, e sono passati 5 anni. In 5 anni abbiamo realizzato prima un cortometraggio dal titolo Ovunque Proteggi, che ha avuto la fortuna di girare e di ricevere molti premi e che ha fatto conoscere fuori, diciamo, dal circuito delle manifestazioni la storia di Viareggio. E poi, diciamo, il sole sulla pelle è stato la sua conseguenza naturale. Tra l'altro del precedente ne avevamo parlato proprio con te in trasmissione. Come hai deciso di strutturare questo lavoro? Il lavoro, appunto, come accennavo prima, parte da quell'evento, però il film ha un suo percorso narrativo molto scandito dalla lentezza, ma è una lentezza, diciamo, voluta. È un modo di narrare, la narrazione filmica prende il suo passo perché vuole accogliere lo spettatore e portarlo dentro la vicenda, ma non vuole mettergli addosso il dolore, l'angoscia per quell'evento, ma lo vuole far ragionare, lo vuole accompagnare. Questo è stato un po' il filo conduttore e quindi il fil rouge del film è Marco Piacentini, che è, diciamo, un po' l'emblema di questa storia perché ha perso la moglie e i due figli e lui è ustionato nel 92% del corpo. E quindi lui è il fil rouge del film, lui il rapporto col suo figlio, l'unico figlio rimasto, e la ricostruzione appunto della loro vita insieme che sta andando avanti. E di contorno logicamente ci sono le manifestazioni, il processo, tutti gli altri familiari. Quindi diciamo che non si è voluto fare un discorso di reportage, un discorso di inchiesta, ma bensì indagare nell'animo umano. Che percorso sta facendo il tuo documentario? Il film al momento è nelle sale, autodistribuito, però sta andando molto bene, nel senso che alla fine in 4 proiezioni abbiamo fatto 1500 persone in sala, lo stiamo portando in giro per l'Italia con molta fatica, siamo stati naturalmente in anteprima Viareggio, poi Massa, Sarzana, Carrara, Melendugno, Chioggia, ora siamo a Roma, poi saremo a Spezia, Pietrasanta, Genova, Padova. Diciamo che sono date che si stanno costruendo man mano, perché l'interesse è molto, chi vede il film lo recensisce in modo buono e quindi c'è molto interesse. Speriamo magari che questo interesse porti anche a trovare una distribuzione che si affianchi a noi e ci aiuti in questo viaggio. Ecco, proprio a questo proposito, ci lasci tutti i riferimenti internet per saperne di più? Sì, allora, se volete seguire questa storia, volete seguire il film, potete andare semplicemente nella pagina Facebook di Caravanserraglio o sul Sole sulla Pelle, dove noi aggiorniamo continuamente con tutti i viaggi, tutte le serate e quello che il film sta facendo. E allora ricordiamo intanto l'appuntamento romano alla Casa del Cinema giovedì 28 febbraio 2019 con il documentario Il Sole sulla Pelle all'interno della rassegna Italia Doc. Un saluto e un ringraziamento al regista Massimo Bondielli. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie mille. Ciao Massimo, ciao. Ciao, grazie, ciao.